sociale, in grandi capitale, realtà distinte ma il luogo è uguale. Vince fra classi per non pensare, odio e scintille e tutto resta uguale. Scala sociale, in grandi capitale, realtà distinte ma il luogo è uguale. Vince fra classi per non pensare, odio e scintille e tutto resta uguale. Personaggi angusti, pieni di disgusti, lassù nei posti giusti, decidono chi scanna, cercano i malesseri per i più miseri, tralasciando i posteri la loro condanna. Sacerdoti senza doti, a suon di voti, simulacri, sacri solo per i ladri, gestiscono sto dramma. Surrogati di realtà per i neonati, condannati già dai primi piatti, a vivere spanna dopo spanna. Pioggia agile di spiccioli, succhinaggi a pieni tavoli, puntiamoli o magari sperperiamoci, salviamoci. Resteranno soli dopo tutto, ma intanto adesso qui comandano. Vedo scimmie che scimmiottano la vita d'alto borgo, poco importa se poi grattano il fondo del loro corpo contro una corrente dove scorre il niente, sempre sempre con l'aria di chi alza il gomito al calare delle tende, intende farsi una vita che non gli spetta, spettacoli da circo in un format che non rallenta, lentamente il portafoglio spoglio, l'erba voglio un convoglio che mi taglia barzellette, sollette di zucchero per finti puro sangue, mi supero e desupero il mio ego da gigante, il numero è lucido a caratteri d'atlante, ma è unico e da subito lo tengo ben distante, le distanze si accorciano tra il quartiere dei cazzuti e quello della tua realtà, dove la pubblicità è tutto, dove l'angolo di strada è una realtà che ti fa brutto, dove l'angolo di pace che cercavi per la tua intimità sarà la fogna da cui prendo spunto, alzerei due dita verso il capostipite, pomperei la vostra vita fino al limite, mi prenderei la soddisfazione di fermarvi e dirvi che la visa qui non paga come il crimine, alzerei due dita verso il capostipite, pomperei la vostra vita fino al limite, mi prenderei la soddisfazione di fermarvi e dirvi che la visa qui non paga come il crimine. Scala sociale, grandi capitale, realtà distinte ma il luogo è uguale. Vince fra classi per non pensare, odio e scintille e tutto resta uguale. Scala sociale, grandi capitale, realtà distinte ma il luogo è uguale. Vince fra classi per non pensare, odio e scintille e tutto resta uguale. Spendo quello che ottengo al meglio, meglio. Due casse, un ampli con il solco sotto, stento il meglio. Ottimizzare il tempo, potendo, potenzio il mio impianto, potendo, propongo lo scambio. Baratto io, barattoli di flow in barba al fisco. Se esco sia chiaro che devasto, se resto mi mangio lo scalpo con tutto il resto. Impacca il coccio e guasto, ma decide chi sta a posto. Voi fate il vostro pagando il servizio. Rap di scambio con potere d'acquisto. Visto lacrime a sto mare che mi vuoi portare male. Io sono scortato dalla terra, vente sole. Poco male se mi vuoi comprare col soldo. Guarda quanto vale l'acqua nel deserto. Mordo anche se cane da riporto, rosso come il conto in banca mia che è sempre troppo sotto. Porto come tegole sotto sotto stanti regole. Pago con le mandorle, mi copro con le ostriche. Mastico la realtà che c'ho intorno. A volte la domino, a volte mi rovino. Avvolgo la mia vita attorno ad un microfono. Svolgo la mia rima senza un centesimo, ma se salto sopra il palco sono io a deciderlo. Svolgo la mia rima senza un centesimo, ma se salto sopra il palco sono io a deciderlo. Svolgo la mia rima senza un centesimo. Utensili di scambio acquistano rapidi un ampio controllo del sistema. Sintesi di tutti i fini causa del problema. Follia collettiva, la realtà si aliena. La sabbia non si strena, solo corsa per la grana. Censura senza gara, senza pena, zero forza mana. Coca in mezzo ai baffi, il principio dei vostri vizi. Filtro questo smog con l'aiuto di un Monzaffi. Intuisci il cambio del tuo euro, ma non controlli cosa nasce nel mio stereo. Intuisci il cambio del tuo euro, ma non controlli cosa nasce nel mio stereo. Scala sociale, grandi capitale, realtà distinte ma il luogo è uguale. Vince fra classi per non pensare, odio e scintille e tutto resta uguale. Scala sociale, grandi capitale, realtà distinte ma il luogo è uguale. Vince fra classi per non pensare, odio e scintille e tutto resta uguale.